Nessun luogo. Nessun luogo. È lontano. Di Giampaolo Musumeci. Islamist al-Shabaab fighters in Somalia have abandoned their bases in Mogadishu. On August 6, Somali President Sheikh Sharif Ahmed said his military has gained victory over the al-Shabaab group, wanting to topple his Western-supported government after the Islamist rebels began pulling out fighters from the capital, Mogadishu. Somalia has been racked by war for decades. Today there are reports from Mogadishu that the militant Islamist group al-Shabaab, which has been accused of blocking food aid, has now abandoned its positions in the capital. Mogadiscio anno zero, la capitale somala libera da sabato mattina dalle milizie di Al-Shabaab. I soldati governativi, supportati dai 9.000 ugandesi e burundesi dell'AMISOM, la missione dell'Unione Africana, stanno prendendo il controllo dei quartieri a nord-est di Mogadiscio. Il Bakara Market, il cuore dell'economia di Mogadiscio, poi roccaforte degli insorti, è oramai nelle mani dei governativi. Festeggia il presidente Sheikh Sharif, ex leader moderato delle corti islamiche, chiama alla prudenza l'AMISOM perché si dice potrebbe trattarsi di una trappola degli Shabab. È una ritirata strategica, fanno sapere loro, gli Shabab, per bocca di Sheikh Raghe, il loro portavoce. E ora, ammesso e non concesso che si tratti di una vera ritirata, Al-Shabaab si riorganizzerà e non lascerà tanto facilmente Mogadiscio nelle mani dei governativi, anche se questa ritirata potrebbe nascondere spaccature all'interno del movimento degli insorti. Ma Al-Shabaab non lascerà tanto facilmente il Bakara Market e il Souk Bad. Secondo un recente rapporto ONU, i due mercati fanno entrare fra commercio, tasse ed estorsione nelle tasche degli insorti tra i 30 e i 60 milioni di euro l'anno. Forse una delle poche certezze in questa crisi somala è che gli aiuti potranno atterrare ed essere distribuiti più facilmente nella capitale Mogadiscio. Staremo a vedere. Se a Mogadiscio si deve voltare pagina, si cominci dalla popolazione, da quelle migliaia di giovani che da 20 anni non hanno mai vissuto un solo giorno di pace. Buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. Oggi in redazione ci sono Riccardo Poli e Alessandro Balia, la parte tecnica c'è Mauro De Angeli. Domande e commenti sono i benvenuti al 349-238-6666, via mail all'indirizzo nessunluogo@radio24.it oppure alla pagina Facebook Nessun Luogo è Lontano. Siamo partiti con la Somalia, con un nostro punto di vista su come potrebbe evolvere la crisi somala, ma oggi, 8 agosto 2011, sono passati 17 giorni dal 22 luglio e dalla doppia strage di Oslo. La Norvegia non sarà più la stessa dopo quanto è accaduto. C'è una Norvegia precedente e una successiva all'attacco e agli omicidi, ma la sua identità più profonda rimane inalterata. E questo è il messaggio che vogliamo trasmettere dalla Norvegia e dal suo popolo. Eppure qualcosa è cambiato e qualcosa cambierà, e non solo in Norvegia. Breivik e il suo manifesto hanno attinto a concetti di nazionalismo, di identità europea corrotta dall'immigrazione, di islamofobia, e Breivik si è appoggiato o ha frequentato gruppi ultranazionalisti europei. Quanto Breivik è frutto o meno di una certa cultura, oggi cercheremo di capire quanto quel suo gesto cambierà la realtà europea. Do il mio benvenuto ai primi due ospiti, che sono Marco Incerti, direttore comunicazione del Center European Policy Studies. Buongiorno Incerti. Buongiorno. E buongiorno anche a Pino Arlacchi, professore, docente di sociologia, ex vice segretario generale dell'ONU. Buongiorno Arlacchi. Buongiorno. Allora, oggi tenteremo di affrontare, di ricordare, di studiare un po' quello che è accaduto in Norvegia secondo una lente di ingrandimento che prevede due piani di discussione diverse. Diciamo, un piano immateriale, che è quello del terrore che ha suscitato il gesto, e poi c'è il piano reale, che è quello della ricaduta sulla realtà norvegese ed europea. E partiamo proprio da quest'ultimo. Perché? Che cosa è accaduto? Beh, innanzitutto il primo effetto reale è stato che sono stati ritirati dalla vendita in Norvegia 3 videogiochi, perché si è detto che potrebbero aver ispirato il gesto del folle. Il secondo dato, che forse è un po' più, come dire, interessante, è un sondaggio che è recentemente uscito e che vedrebbe un'impennata del partito laburista e una grave perdita del consenso del partito nazionalista ultraconservatore. E quindi a questo punto potrebbe essere, come dire, la prima ricaduta, il primo reale effetto del gesto di Breivik. Incerti, la stupisce questa cosa, questo sondaggio, che appunto, come dire, in qualche modo sarebbe la prima sconfitta di questo folle? Ma non mi stupisce, diciamo, mi rallegra quasi, purtroppo però credo che non sia una tendenza che ha riscontro in tutti gli altri paesi europei. Sappiamo che in diversi stati membri dell'Unione Europea c'è una tendenza alla crescita dei partiti di estrema destra, c'è una crescente problema nella popolazione di rispetto alle relazioni con le comunità di immigrati, e purtroppo poi i partiti, diciamo, di centrodestra piuttosto sono costretti a rincorrere gli estremisti su questo terreno piuttosto scivoloso. Quindi secondo lei, come dire, questo primo sondaggio sarebbe una risposta emotiva, molto viscerale, molto di pancia della popolazione norvegese a quello che è accaduto, mentre poi in Europa si assiste comunque a una crescita dell'estrema destra? Sì, di sicuro sia i sondaggi sia comunque anche delle rilevazioni più empiriche, andando a leggere i commenti dei lettori ai giornali in Francia, in Germania, in Spagna, si nota che ovviamente tutti condannano apertamente i mezzi utilizzati da Breivik, e però in fondo non sono totalmente in disaccordo con alcuni dei suoi argomenti. Nella stessa Norvegia poi non bisogna dimenticare che il Partito del Progresso, che è un partito dal quale Breivik è fuoriuscito nel 2006, è comunque da anni il secondo partito e viene isolato dalle altre forze politiche, però a livello di riscontro elettorale comunque ha sempre un successo notevole. Pino Arlacchi, quali effetti potrà avere il gesto di Breivik? Effetti rilevanti? Nessuno. Come d'altra parte quasi tutti gli attentati terroristici che suscitano una grande emozione, e il loro scopo è proprio quello, suscitare terrore e paura, per poi essere rapidamente dimenticati e la politica poi fare il suo corso normale. Più che l'attentato terroristico è la matrice di lungo periodo che deve preoccupare, e cioè questa islamofobia, questo scontro di civiltà che ha provocato e ha contribuito ad armare la mano di questo squilibrato e ha contribuito anche a questa deriva xenofoba e razzista di diversi paesi europei. Questo sì che è il fenomeno serio, questo è più un prodotto che una causa. Perché l'Islam è considerato il grande nemico dai gruppi ultranazionalisti? Marco Incerti. Nei partiti ultranazionalisti, diciamo, soprattutto nel nord Europa, comunque c'è un problema, c'è una tradizione di società aperte che affrontano la questione della tolleranza in maniera militante, quindi fanno della tolleranza un valore assoluto da affermare e che quindi vivono in maniera conflittuale la relazione con alcuni aspetti delle comunità di immigrati islamici, quindi c'è questo, diciamo, problema del scontro di valori o valori che vengono percepiti come diversi, e si comincia a temere in alcuni di questi paesi che il confronto con questi valori diversi porti ad una perdita delle libertà che sono state acquisite, libertà civili che sono state acquisite nel corso dei decenni. Pino Arlacchi, come si fa a costruire un terrore? Come si fa a costruire una paura del diverso? Ma innanzitutto si fa amplificando la diversità, amplificando i problemi di convivenza con culture e società, ideologie e valori diversi. Purtroppo è diventata un'industria di grandi dimensioni che è riuscita a capovolgere l'idea che noi abbiamo del mondo, è riuscita a farci pensare che noi viviamo in un mondo dove aumentano i conflitti, dove aumenta la violenza, dove crescono le guerre, dove cresce la criminalità, mentre in realtà avviene esattamente il contrario. Quello di cui parla Arlacchi, fra l'altro, è al centro di un suo libro, L'inganno e la paura, se non vado errato, dove appunto analizza questa dicotomia, no? Questa forbice che esiste fra una statistica che ci racconta come in questo secolo, in questi ultimi anni del nuovo secolo, si muoia di meno, ci siano meno attentati, eccetera, e poi in realtà una percezione che si ha di ciò che avviene. Quindi, come dire, c'è una paura che aleggia nell'aria, che poi in realtà non è suffragata in qualche modo da eventi tragici. Però Arlacchi, un evento come questo, come quello della strage di Oslo e di Utøya, ha un impatto devastante sulla popolazione. E poi però che cosa succede? Perché si esaurisce? ha un impatto devastante nell'immediato, come tutti gli attentati terroristici. Dura un'emozione intensa e che dura poco e verrà rapidamente dimenticato come tutti gli altri attentati e non avrà alcun effetto significativo né sul sistema politico né su altro. Servirà a far vendere più armi, a aumentare le difese della popolazione, servirà a ridurre gli spazi di tolleranza, questo sì, e quindi i partiti xenofobi e populisti se ne avvantaggeranno. Servirà anche a certi media irresponsabili che si prestano al gioco dei terroristi, amplificando oltre ogni misura fatti che al netto dell'effetto terrore, dell'effetto paura e emozione, in realtà provocano danni molto modesti. Sì, c'è da dire che il racconto fatto dai media il 23, il sabato, insomma il giorno successivo alla strage, era immediatamente orientato, no, alla minaccia islamica. Si sono letti i titoli terrore islamico Oslo, eccetera, eccetera, perché insomma alla fine il nemico di elezione era quello. Vi faccio ascoltare che cosa dice sul futuro della democrazia norvegese Muhammad Usman Rana, che è un medico e un editorialista dell'Aftenposten, quotidiano norvegese. La nostra democrazia, la sua apertura e il suo multiculturalismo saranno preservati perché ne siamo orgogliosi. Questo attacco ci ha riunificato, ha avuto l'effetto di un collante tra i norvegesi, sia sotto l'aspetto religioso che etnico. Ci stiamo riunificando dopo quanto è accaduto. Fra l'altro, il commento di Muhammad Usman Rana è interessante perché lui è di origine pakistana, in qualche modo è, come dire, un manifesto vivente di quella che è la cultura dell'apertura e dell'accoglienza norvegese. Lui termina questo suo intervento dicendo: ci stiamo riunificando dopo quanto è accaduto, come se in qualche modo il nemico offrisse margini più ampi per ritrovare un'identità. Nello studio delle destre europee c'è un tratto comune, che è quello di comunque dell'individuazione di un nemico per darsi un'identità? Questo senz'altro, poi si tratta di un nemico che è più facilmente identificabile, perché anche qui in alcune delle società nord europee si tratta comunque di gruppi che erano storicamente più omogenei, quindi il diverso salta agli occhi. E però io concorderei con il dottor Arlacchi nel sottolineare come poi i dati di fatto non corrispondano a queste percezioni che vengono trasmesse a volte dai media. L'OCSE ha sottolineato come in realtà le migrazioni siano in calo quest'anno per motivi economici, come poi a livello anche lì economico l'integrazione proceda in maniera piuttosto liscia. In Norvegia la percentuale di immigrati comunque resta ad un 7%, quindi è facilmente digeribile. Il problema però, riguardo all'intervento che ci ha appena fatto sentire, è l'uso di quel termine multiculturalismo, che è una parola chiave ripetuta spesso e che a livello europeo sta diventando piuttosto impopolare. La cancelliera tedesca Angela Merkel nel novembre del 2010 ha dichiarato che il multiculturalismo in Germania ha fallito. David Cameron, il primo ministro britannico, nel febbraio 2011 ha fatto la stessa affermazione, e sappiamo che il presidente francese Sarkozy aveva addirittura pensato alla creazione di un ministero dell'immigrazione e dell'identità nazionale. Livello europeo c'è un passaggio, una tendenza ad abbandonare il multiculturalismo e andare piuttosto nella direzione dell'assimilazione degli immigrati. Nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, gentili ascoltatori, da Giampaolo Musumeci. In Nessun luogo è lontano. Quest'oggi stiamo cercando di capire quali sono alla fine le ricadute reali sui movimenti politici europei del gesto di Breivik, o se in effetti vi sia, come dire, una componente immateriale, che qui faceva riferimento Arlacchi, che poi svanisce, una componente sì dolorosa, ma che poi svanisce nel giro di alcune settimane. Allora anche i sondaggi che danno una risalita del partito laburista, una discesa del partito reazionario conservatore norvegese, non sono altro che forse delle fiammate emotive molto miscerali, molto, molto di pancia. Marco Incerti stava facendo riferimento al fallimento del multiculturalismo, che poi è stato anche tirato fuori da Angela Merkel. Fra l'altro, in questi giorni, anzi in queste notti, a Tottenham ci sono, insomma, dei disordini, ci sono degli scontri che fanno un po' ricordare quelli delle banlieue di qualche anno fa e che sembrano quasi in qualche modo la prova provata di quello che diceva, cioè alla fine il multiculturalismo mostra delle crepe, alla fine l'uccisione di questo uomo di colore ha scatenato una rivolta sicuramente violenta in un quartiere che, insomma, oramai sembrava aver dimenticato certe pagine. Invece sembra sempre che nell'Europa così del 2011 vi siano in qualche modo, no, dei virus che stanno covando e che ogni tanto esplodono così violentemente. Perché fallisce il multiculturalismo? Perché in Europa pare si è alla ricerca di una presunta superiore identità europea? Arlacchi. Guardi, il multiculturalismo inteso come una politica dell'integrazione non è fallito affatto e le dichiarazioni sia della Merkel che di Cameron e di altri sono semplicemente irresponsabili a questo proposito. A meno che non si intenda con che cosa si misura questa integrazione. Con il numero degli attentati, con il numero dei morti per scontri di natura etnica, xenofoba e così via, allora se li misuriamo in questo modo non troviamo nessuna tendenza significativa all'aumento, tutt'altro, nessun dato mostra un'esplosione di razzismo violento in Europa. Quello che cambia invece è l'amplificazione sconsiderata di questi fatti, che viene fatta un po' dai media che giocano molto sulla emozione e sulla paura e un po' da politici abbastanza irresponsabili, quasi sempre di destra, che giocano sulla creazione di nemici. Siccome nemici è sempre più difficile trovarne perché i fatti vanno nella direzione contraria, per esempio la violenza in Europa, la violenza criminale in Europa, da quando c'è questa ondata di immigrazione, cioè da una quindicina di anni, continua a diminuire in tutta Europa, compreso l'Italia, ma nessuno sembra prestare attenzione a questo fatto. Molti sono impegnati a costruire nuovi nemici, a costruire queste ideologie dello scontro e dell'intolleranza, perché con queste ideologie si guadagnano voti in modo molto facile. Lei dice, Arlacchi, che seguendo le statistiche in realtà non è vero che immigrazione è uguale maggiore delinquenza, criminalità, eccetera. Non è un fatto statistico, è non è semplicemente una statistica di qua o una di là. Sono i principali studi fatti dagli scienziati sociali su questo argomento che concordano nel dire questo. Non sono soltanto i dati, sono anche i fatti. E questo è un dato importantissimo che chi crede nel progresso, chi crede appunto in un futuro dell'Europa come portatrice di una certa idea di civiltà e di democrazia, ecco, deve avere presente, deve saper rivendicare, deve avere più sicurezza in se stesso. Se noi cominciamo ogni volta che accade un episodio come quello di Oslo a pensare che tutto sta andando in fumo, che il mondo non sarà più lo stesso, che abbiamo perso la battaglia per la democrazia e per la tolleranza, facciamo un danno a noi stessi e inoltre andiamo contro quella che è la realtà dei fatti. Allora, è molto importante anche per chi è impegnato socialmente e politicamente tenere presente come stanno le cose, non contribuire al catastrofismo che non fa altro che far bene a chi invece non vuole cambiare, a chi invece vuole risuscitare fantasmi. Noi, lungi da noi come dire, abbracciare il catastrofismo, anzi abbiamo detto che finora l'unica ricaduta è un sondaggio, peraltro, che in certi, insomma, ci spiegava molto bene della crescita del partito laburista in Norvegia. Abbiamo parlato del successo, della sconfitta, anzi apparente, secondo in certi, del multiculturalismo detto da alcuni politici, mentre il nostro Mohamed Usman Rana, vi dicevo, medico, editorialista dell'Aftenposten, sentite come descrive la chiave del successo norvegese. Norway is a very well functioning multicultural society. The key to that success has been giving people opportunities. La chiave del successo della società multiculturale norvegese è dare alle persone opportunità, includerli e creare una nuova identità norvegese, un concetto ampio di identità norvegese, come negli Stati Uniti, dove con americano si intendono più etnie. La scommessa in tutta Europa è che la gente vada oltre la cultura unica e dominante, che non fa altro che creare tensioni. Dobbiamo ricordarci che, anche se il terrorista sembra essere isolato, isolato, le sue idee sono molto comuni e vanno analizzate senza demonizzarle a priori, cercando comunque di capire se possono portare la gente ad atteggiamenti radicali. Si è tanto discusso sulla natura del gesto di Breivik, un folle solitario o il frutto comunque di una certa cultura? Telegraficamente vorrei sapere la vostra opinione, Marco Incerti. Un folle solitario che porta alle estreme conseguenze, diciamo, per un terreno di cultura che esiste. Telegraficamente anche sono d'accordo con il dottor Arlacchi sulla questione del multiculturalismo, l'avevo esattamente portato come esempio di questo rincorrere da parte dei politici di centrodestra le idee piuttosto estreme dell'estrema destra, quindi il fallimento del multiculturalismo è stato appunto per motivi populistici. Pino Arlacchi, la stessa domanda, è un gesto di un folle solitario, quindi il nostro collegamento, come dire, con l'ultranazionalismo di destra è arbitrario, è una speculazione, oppure secondo lei è il frutto di una certa cultura? Beh, sono entrambe le cose, in ogni società ci sono degli squilibrati, delle persone deboli che alimentate da climi, da ideologie estreme come queste fanno questi tipo di gesti. Però, ripeto, la Norvegia è uno dei paesi più ricchi del mondo, è uno dei paesi più solidali del mondo, è ai vertici delle classifiche dell'aiuto internazionale, è una democrazia forte, è un paese democratico con radici profonde, non sarà certo il gesto di uno squilibrato né a farlo cambiare, né a fargli perdere alcuna innocenza, né a fargli, ecco, queste esagerazioni, ecco, sono la cosa più dannosa di questi attentati terroristici. Beh, c'è stato uno slogan giornalistico piuttosto ricorrente, no? L'innocenza perduta di questo Nord, come dire, no? Che è sempre stato corretto, perfetto, pulito, in cui tutto funzionava, in cui i poliziotti non girano armati, in cui non c'era alcuna violenza. Disse che la Svezia aveva perso l'innocenza, un'innocenza che non c'era mai stata, perché la Svezia è stata un paese europeo in passato molto aggressivo e molto violento, tra i più violenti, che a un certo punto, più di 200 anni fa, ha deciso di farla finita con la guerra e imboccare un'altra strada. Questo non vuol dire che è un paese di innocenti, la Svezia ha un'industria bellica, la Bofor, tra i più potenti del mondo, e ha fatto insomma la sua parte nel creare danni e aggressioni di qua e di là. Queste sono formule che non funzionano, piuttosto va considerato il fatto che la Svezia, dopo l'assassinio di Palme, è rimasto esattamente il paese che era prima, le dinamiche politiche sono rimaste le stesse, come sono rimaste le stesse in India dopo l'assassinio di Indira Gandhi e come è successo in tantissime altre parti del mondo. Quindi io direi che è ora di finirla con questa isteria e catastrofismo, esagerazione sul terrorismo, perché non si fa altro che fare il gioco del terrorismo che è così da quando è nato. Grazie allora Pino Arlacchi per il suo contributo, una buona giornata, un buon lavoro. Grazie a voi, grazie. E grazie anche a Marco Incerti del Center European Policy Studies. Grazie Marco, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, buona giornata. Di Oslo vi sono due componenti, abbiamo detto all'inizio, che è quella immateriale e poi quella reale. Quella immateriale è il terrore, che abbiamo, come dire, in qualche modo smontato, abbiamo cercato di smontare grazie anche a Pino Arlacchi, e poi ci sono le ricadute reali appunto sulla politica, sulla società, e da quello che pare di poter, come dire, annusare, è possibile ipotizzare che grosse ricadute, grossi cambiamenti questa strage fortunatamente potrà non averne. Do il mio benvenuto anche a Andrea Mammone, docente di storia contemporanea all'Università di Kingston a Londra. Buongiorno Andrea. Buongiorno a lei. Allora, fra l'altro lei sta a Londra. Sì. Che idea si è fatto degli scontri di Tottenham? Sono due notti che, insomma, la situazione sembra piuttosto calda, cioè, a vedere le immagini, a vedere, no? Sì, sì, ma ancora una volta nulla di nuovo sul fronte occidentale. Adesso dove ci sono alcuni problemi in alcune zone di determinate città europee, semplicemente perché l'integrazione non ha, tra virgolette, funzionato come doveva. Però anche lì non è una novità, scontri del genere ce ne sono già stati in precedenza in Gran Bretagna, nella zona nord dell'Inghilterra, nella zona di Bradford, vicino Leeds. Sì, però insomma era un bel po' che io insomma, ricordo sì, gli scontri sì. di Brixton, no? Ma siamo negli anni 80 sì. forse, no? In cui c'era comunque un rigurgito piuttosto violento da parte di alcuni cittadini. Però insomma lei tende a minimizzare, dice alla fine, corsi e ricorsi sì, della storia, ma... No, sì, io tendo a minimizzarla, c'è ancora troppo presto per dire che questo porterà ad altre forme di violenza in Gran Bretagna. Bisogna attendere e vedere come si evolvono le cose. Ci sono alcune aree effettivamente difficili, dove il multiculturalismo non ha funzionato probabilmente come doveva funzionare, dove c'è un'esasperazione, ma è troppo presto per dire che questo porterà ad altro. Nessun luogo è lontano. Suche so einen kleinen Job, für ein bisschen Geld zu verdienen. Mehr zu holzen. Und bring endlich das Altlasen weg. Kann ich Zug? It might be a boy without employment and he's looking for... Nel mio film il protagonista è disoccupato, sta cercando un riconoscimento, questa è la motivazione, non ha un padre, non ha un lavoro, non c'è amore nella sua vita in questo momento e sta cercando un riscatto che desidera moltissimo ma non riesce a trovare. La voce che sentite era quella di Christine Repond, che è una regista svizzera tedesca del film Silberwald, che è stato presentato in queste ore al Festival del Cinema di Locarno. Ed è un film che in qualche modo illustra una educazione sentimentale di destra di un giovane Sasha che si avvicina. È un giovane che, come dire, non ha molte speranze per il futuro, ha un vuoto, come sentivate, un vuoto sentimentale, e in qualche modo trova una sua identità abbracciando la vita di un gruppo di estrema destra. E poi il film si chiude proprio con lo scontro, confronto del protagonista con il suo obiettivo, il suo nemico, che era questa comunità di immigrati. Il film si chiude proprio su, ma non mi voglio svelare troppo, su questo incontro scontro. Andrea Mammone, quali sono i tratti comuni che possiamo rinvenire nei focolai dell'estrema destra, dell'ultranazionalismo europeo? È corretto secondo lei questa visione, che, come dire, è artistica, è una regista che trova una delle spiegazioni, no? Nell'abbracciare una certa politica nell'assenza di valori individuali, quindi dice: io per trovare un'identità, insomma, in qualche modo vengo accolto in una comunità di destra ultranazionalista che ricerca un'identità fortemente. Sì, sì, cioè, questo non vuol dire che in realtà non si abbiano dei valori individuali, però è vero che spesso nella costruzione della comunità, del concetto di comunità di estrema destra, c'è bisogno di un nemico, di un esterno, l'altro, sul quale costruire i propri valori, la propria identità. E questo è quello che è successo storicamente, è questo quello che è successo con il terrorista norvegese. Cioè, il suo concetto di comunità e di belonging non è quello che abbiamo, che semplicemente noi percepiamo nella nostra vita di tutti i giorni, che è una comunità locale, cittadina, regionale o anche familiare. In realtà il concetto di comunità è fatto da chi condivide determinati lavori, valori. Il concetto di comunità non è per forza nazionale, il concetto di comunità nel suo caso non è per forza norvegese. Il terrorista attacca i suoi concittadini semplicemente perché non sono i suoi concittadini, lui non ha nulla da spartire con loro. I suoi concittadini, tra virgolette, sono quelli che condividono la sua visione del mondo. Quindi è come se, insomma, Breivik avesse costruito una comunità differente che prescinde dall'essere norvegesi e in qualche modo facesse riferimento esclusivamente a quella. E quindi i ragazzi assassinati non erano norvegesi, ma erano semplicemente laburisti, quindi erano comunque nemici. Erano dei nemici. Non appartengono alla stessa, tra virgolette, razza, etnia o comunità. Questa non è una cosa, ancora una volta, il mio stupore è lo stupore generale, perché sono stato intervistato da media di mezzo mondo, cioè, e in pochi riuscivano a percepire questo. E lui non attacca i norvegesi, lui attacca i suoi nemici. E questo storicamente, si guardi alla storia d'Europa, che noi purtroppo troppo spesso dimentichiamo, c'è una fratellanza fascista che si sviluppa tra le due guerre, c'è una fratellanza nazista e fascista che si sviluppa negli anni delle trincee. Subito dopo la guerra, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, questo concetto di fratellanza non muore, ma in alcuni casi addirittura si lega a una visione pannazionale dell'Europa. Così facendo si crea una fratellanza che va certamente oltre le frontiere e bisogna attaccare il nemico, in questo caso con una forte radicalizzazione dei valori, si attacca un nemico che può essere il concittadino, che può essere il vicino della porta accanto. Negli anni della guerra civile in Italia, tra i fascisti di Salò e le loro violenze ad esempio sulla popolazione italiana, se lei va a leggere i racconti, le memorie di alcuni di questi fascisti di Salò, loro percepivano di combattere per un'Italia diversa, che era l'Italia che era stata tradita da quegli stessi italiani che loro non percepivano più come italiani, come appartenenti alla loro comunità fascista. Adesso, traslando questo al caso specifico norvegese, più o meno possiamo trarre delle similitudini. Lei dice che esiste in qualche modo come dire, una competizione fra un'identità paneuropea, se ho capito bene, che è questa identità sovranazionale, sovrasociale cui lei faceva riferimento, quindi la creazione di una comunità che non necessariamente fa riferimento al posto in cui vivo. Vuol dire che i gruppi si parlano, hanno uno stesso linguaggio, che un gruppo ultranazionalista ungherese, che è quello ad esempio dove a un recente congresso si è infilato un giornalista del Sun, insomma, e ha scoperto che venivano, come dire, rievocate anche mitologie, simbolismi, saluti che non si vedevano da decenni. E esiste quindi un fil rouge all'interno dell'Europa su questo ultranazionalismo? Ma certamente. Questo in realtà, questo legame, in realtà, questo paneuropeismo, pannazionalismo europeista, si comincia a sviluppare fin dagli anni 50, quando in una serie di meeting organizzata a Roma, a Malmo, si crea un'associazione internazionale chiamata Movimento Sociale Europeo, dove anche gli italiani erano ben presenti. Poi se ne formano altre associazioni. In questo contesto cosa succede? In pratica si comprende che bisogna uscire dal ghetto nel cui si è stati spinti con la sconfitta da parte delle forze anglo-americane. Inoltre si comprende che il nazionalismo militare, il nazionalismo tout court, del nazismo e del fascismo, non può funzionare in un'Europa che è molto diversa. E allora si cominciano a creare delle associazioni, dei legami transnazionali tra gruppi, movimenti. Infatti ci sono vari studi, pochi purtroppo, che studiano proprio questa circolazione delle idee di estrema destra, dei militanti attraverso le frontiere europee. A partire dagli anni 50 ad oggi, ovviamente questi legami sono stati cementificati. Oggi, con l'uso di internet, con l'uso della musica, con nazi rock e altri tipi di musica, tra virgolette, di estrema destra, è estremamente facile creare legami attraverso le frontiere. Infatti ci sono spesso dei meeting internazionali, ci sono delle manifestazioni, ci sono delle commemorazioni comuni, quindi in realtà c'è un lassi all'interno della galassia di estrema destra che va avanti da tantissimi anni, e con la libera circolazione, quantomeno nel nostro spazio europeo, ovviamente questi legami si sono rafforzati. Quindi in realtà quello che bisogna comprendere, e che purtroppo devo ribadire, non molti miei colleghi hanno compreso, è che l'estrema destra rigetta il concetto di Unione Europea, come noi la conosciamo, che è l'Unione Europea di Strasburgo, di Bruxelles, ma non rigetta l'idea di Europa, di un continente bianco, di un continente puro, che un tempo era un bastione contro il comunismo sovietico e contro l'americanizzazione. Oggi in particolare è un bastione contro la globalizzazione economica, quindi la perdita dei valori europei, ed è un bastione contro l'Islam, contro l'immigrato. La Molti immigrati della prima generazione lo erano per lavori manuali e impieghi come i tassisti. Ora la seconda generazione ha avuto una preparazione migliore dal punto di vista accademico. Quasi il 10% degli studenti di medicina dell'Università di Oslo sono immigrati. Possiamo dire che l'integrazione è avvenuta con successo, ma di sicuro ci sono ancora molte sfide. Dobbiamo discutere sulle loro condizioni, senza arrivare però ad estremismi. E questo era sempre Muhammad Usman Rana di Aftenposten, quotidiano norvegese. Andrea Mammone, le chiedo un ultimo sforzo, diciamo, di visione su quello che potrebbe essere il futuro. Ha molto ben illustrato quelli che sono i meccanismi di questa destra ultranazionalista e paneuropeista. Come e se si può disinnescare un'eventuale deriva violenta? Guardi, non so se questo è stato già stato detto in precedenza dai miei colleghi, ma l'utilizzo di slogan da parte dei politici, diciamo, mainstream, tradizionali, o anche dei media, sul il multiculturalismo ha fallito, l'attacco all'Islam, eccetera, eccetera, certamente fanno il gioco di una destra estrema. Il problema è che in alcuni paesi europei, in alcune regioni europee, alcuni di questi movimenti sono al potere, sono nei governi nazionali o regionali. Per cui sarà molto difficile scardinare le loro idee da questo punto di vista. Il problema è che una determinata ideologia, come posso dire, in realtà funziona contro il funzionamento di società che sono ormai multietniche, in maniera, cioè noi non possiamo più tornare indietro. L'Europa, l'Unione Europea è stata costruita dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, ha promosso una fratellanza tra le sue genti. Adesso bisogna salire di uno scalino. Saremo noi europei in grado di creare un tipo di cultura che sia accogliente? Perché i valori europei non possono essere in esclusione ad altri, altrimenti si va a distruggere l'idea stessa di Unione Europea, che è quella di fratellanza tra le genti. Grazie Andrea Mammone, docente di storia contemporanea all'Università di Kingston, Londra. Mi piace anche molto, insomma, il suo richiamo a una comunicazione, anche a noi che facciamo informazione, di un po' più di equilibrio, evitare, insomma, gli slogan. Grazie, una buona giornata. Grazie, buona giornata. WhatsApp, notizie dall'altro lato del mondo. E andiamo veloci in Afghanistan, dove centinaia di persone sono scese in piazza oggi a Ghazni City, capoluogo dell'omonima provincia centro-orientale del paese, per protestare per la morte di due civili causata, secondo loro, da forze straniere durante un raid aereo notturno. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Pagiwok. E poi in Ucraina, dove è stata respinta l'istanza di scarcerazione per Giulia Timoshenko, presentata da uno dei suoi difensori. Il presidente del tribunale distrettuale di Pekeski a Kiev, davanti al quale pende il processo per abuso di potere e malversazione a carico dell'ex premier ucraina, ha infatti confermato la custodia cautelare. E insomma, la questione da giudiziaria diventa sempre più politica, perché forse avrete letto, avrete seguito, la Timoshenko si rifiuta di collaborare con i magistrati e sostiene che il giudizio, la corte che lei ha di fronte è una corte filorussa e quindi sostanzialmente non intende rispondere. E poi ancora la Siria, che occupa molte delle notizie battute dalle agenzie. Ancora continuano a girare, purtroppo, insomma, notizie di difficile verifica, però quello che è certo è un colloquio telefonico che vi è stato ieri sera tra il segretario di Stato americano Hillary Clinton e il ministro degli esteri turco Ahmet Davutoglu, che domani sarà in visita ufficiale a Damasco. Al ministro degli esteri turco, secondo quanto riferito dal suo portavoce Mark Toner, la Clinton ha chiesto di premere sul regime di al-Assad affinché faccia immediatamente ritirare nelle proprie caserme i suoi militari. Insomma, vedremo se almeno la vicina Turchia riuscirà a mettere un fine alle violenze in Siria. E allora i titoli di coda, vi ringrazio cari ascoltatori per essere stati con noi quest'oggi, un grazie anche da parte di Alessandro Belli e Riccardo Polli, che erano in redazione, Mauro De Angeli alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani 13:15, Nessun Luogo Lontano.